Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Ed eccoci, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati al podcast di Effetto Giorno. Grazie per averlo scaricato e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per avere la notifica e sapere esattamente sul vostro smartphone o sul vostro browser il momento nel quale arriva il podcast di Effetto Giorno. In apertura i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci. Via mail, naturalmente, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e poi il mio account Twitter Simone Spezia. Come vi dico sempre, scrivetemi per farmi sapere che cosa ne pensate, tanto del podcast quanto della trasmissione, le vostre opinioni, le vostre idee. Siamo qua a disposizione anche per rispondervi anche sui temi trattati dalla trasmissione. Iniziamo con le notizie di oggi. Hanno votato tutti? No. Allora, forza, veloci, colleghi. Ecco, adesso ha votato, hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 357, contrari 125, la Camera approva. È la Presidente della Camera, Boldrini, che annuncia così la chiusura delle votazioni sul DDL di riforma costituzionale, che adesso torna al Senato. Molte divisioni all'interno dei partiti, all'interno del Partito Democratico e all'interno di Forza Italia, che ha realizzato di avere una fronda interna formata da almeno 17 persone. Forza Italia che comunque ha votato no. È in corso a quanto pare una trattativa anche all'interno della minoranza del PD su questi temi. Più avanti la cronaca. Camille, souvent appelée même Madame 100%, elle... La voce che sentite è quella di William Forg. Chi è? È il fidanzato, il compagno di Camille Muffo. Camille Muffo è una delle 10 vittime del tragico incidente avvenuto in Argentina, lo scontro tra due elicotteri. E Camille Muffo era una delle persone più note che si trovava su questi elicotteri, perché era una campionessa di nuoto francese, oro olimpico a Londra nel 2012 nei 400 stile libero, una vera e propria rivale per Federica Pellegrini. Hanno perso la vita anche una grande velista e un pugile francese. Erano là per una sorta di Isola dei Famosi. Con la cattura di Schiavone padre, gli equilibri si erano riassestati in un altro senso. È la voce del procuratore di Napoli, Colangelo, che parla di un'importante operazione avvenuta questa mattina. I figli di Schiavone avevano preso in mano gli affari dei casalesi e in sostanza la procura di Napoli, con un'operazione di questa mattina, è riuscito a disarticolare questa organizzazione, o almeno così si spera. Far capire ai bambini che i corpi funzionano allo stesso modo. Molti sms mi avete mandato in trasmissione su questo. Fabiana Martini, vice sindaco di Trieste con delega alle pari opportunità, promotrice dell'iniziativa Il Gioco del Rispetto, un gioco distribuito in 45 asili di Trieste con il quale si vogliono educare i bambini a non percepire tanto le differenze tra uomo e donna. Sono una questione di pari opportunità che però tanto ha fatto discutere proprio per come è articolata. Gli altri argomenti che toccheremo nel corso di questo podcast sono i dati sulla produzione industriale, che sono negativi, e poi la vicenda di un concorso pubblico per i supplenti annullato. Perché si prevede che le persone che partecipano debbano avere la cittadinanza italiana. Ebbene, questo per legge non si può fare. Iniziamo dalla politica però, e iniziamo dal voto sulle riforme costituzionali con Alessandra Schepisi. La Camera approva in seconda lettura il DDL costituzionale che riforma il bicameralismo paritario, abolisce il Senato e modifica profondamente il procedimento legislativo. Favorevoli 357, contrari 125, 7 astenuti. Un paese più semplice e più giusto, commenta Renzi con un tweet, un passo in avanti importante, dice il ministro delle riforme Boschi. Ma la votazione, come dicevi Simone, è avvenuta in un clima molto teso, con i deputati 5 Stelle che hanno abbandonato l'aula autoescludendosi dal voto, accusando la maggioranza di essere fascista. Presenti e contrari invece Lega e SEL, caos in Forza Italia che ha espresso voto contrario. Questa è l'indicazione data da Berlusconi, ma il partito si è di fatto diviso, con 17 deputati dell'area di Verdini che hanno votato no per affetto verso Berlusconi, così hanno detto, ma presentando un documento molto critico sulla linea del partito. Così invece il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Brunetta, ha riassunto la posizione della maggioranza degli azzurri. Sentiamo. Lei ha tradito la nostra fiducia per il potere, per il suo potere, ed è per questo che lo spirito di questa riforma si sta trasformando in un fantasma che si aggira sulla nostra democrazia. State facendo un grave errore, signor Presidente del Consiglio, che non c'è. Porterete la responsabilità storica di una grande occasione perduta. Per questo diciamo no, con semplicità no. Il vostro sì è distruttivo, rischia di aprire ad una svolta autoritaria. Il nostro no è desiderio e tutela di libertà. Ma l'umore anche nel PD, dove però i dissensi alla fine sono stati pochi, anche la sinistra interna vota sì, ma rimarca le proprie critiche chiedendo come contropartita la modifica della legge elettorale. Non ha invece partecipato al voto Stefano Fassina, sentiamo la sua voce. Grave procedere a così radicali cambiamenti dell'assetto costituzionale senza un ampio consenso. Inoltre, nelle ultime ore abbiamo appreso dal Presidente del Consiglio l'indisponibilità a correggere la legge elettorale. Per tali ragioni, pur condividendo la necessità delle riforme, non posso sostenere il testo oggi all'esame dell'Aula e non partecipo al voto. L'iter di questo testo lo ricordiamo ancora lungo. Dopo il voto di oggi il DDL Boschi passa al Senato per la terza lettura, seguirà quindi un intervallo di 3 mesi, altra lettura di Camera e Senato, e se il testo non dovesse subire più modifiche, se non fosse approvato con la maggioranza dei 2/3, si andrebbe al referendum popolare, tutto questo non prima dell'estate del 2016. A te Simone. Su questo abbiamo intervistato anche il sottosegretario alle riforme e ai rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto, con il quale abbiamo parlato anche della decisione del TAR arrivata ieri per quanto riguarda le nozze omosessuali, le nozze tra persone dello stesso sesso, i matrimoni contratti all'estero e che alcuni sindaci hanno deciso di trascrivere. Sentiamo. No, guardi, io parto da un punto che è un dato oggettivo, e cioè che l'Italia è l'unico paese civile del mondo la cui legge elettorale sia stata fatta dalla Corte Costituzionale. La nostra politica sono 10 anni, dal 2005, che dice che la legge elettorale non va bene. Non abbiamo sentito mai un politico italiano dire che la legge elettorale è così. Mi scusi Scalfarotto, sul fatto che la legge elettorale vada modificata, penso che non ci sia alcun dubbio. E su questo, se si facesse un referendum oggi, insomma, il 95% direbbe che non si può stare con la legge elettorale uscita dalla sentenza della Consulta. Detto ciò, ripeto, ci sono margini di modifica dell'Italicum secondo lei oppure no? Secondo me no, nel senso che l'Italicum è stato, diciamo, incubato a lungo, è stato oggetto di una serie di deliberazioni della direzione nazionale del Partito Democratico, è stato discusso già alla Camera e poi al Senato con successivi aggiustamenti che tra l'altro hanno recepito in gran parte le osservazioni della minoranza del partito. Penso per esempio all'innalzamento della soglia per il premio dal 37 al 40%, alla riduzione della soglia per entrare alla Camera dall'8 al 3%, all'inserimento dell'equilibrio di genere. Quindi diciamo quasi tutte le proposte della minoranza del PD sono diventate poi parte integrante della legge. Questa è una legge però che ha raggiunto un equilibrio tra tutti, non è naturalmente la legge solo del Partito Democratico, una legge che ha raccolto anche il consenso di parti dell'opposizione e di tutta la maggioranza, e quindi se la Camera la approverà io penso che sia giusto che vada in vigore, per finalmente, anche per poter dare una risposta al Paese che vuole vedere una classe dirigente, una classe politica che una legge elettorale la produce, cosa che finora non si è riuscito a fare per quasi 3 legislature. Anche il DDL di riforma costituzionale resterà così com'è, immagino. Ma il DDL di riforma costituzionale ha ormai molti punti che sono stati confermati dalla Camera e quindi non possono essere più modificati dal Senato. Quindi si ha, tecnicamente si dice, una doppia lettura conforme. Quindi il Senato adesso potrà pronunziarsi soltanto su quei punti sui quali la Camera ha agito. Vediamo il Senato che cosa farà. Ovviamente ci sarà il dibattito parlamentare, però sarà concentrato soltanto sui punti modificati alla Camera. La volevo coinvolgere su un altro punto che so che ha molto a cuore, ed è quello che è successo ieri. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, lo abbiamo raccontato nei nostri giornali radio e ampiamente anche stamattina nella rassegna stampa, ha accolto il ricorso di alcune coppie contro l'annullamento disposto dal, dal prefetto di nozze tra persone dello stesso sesso contratte all'estero. Ricostruisco per gli ascoltatori: il ministro dell'interno Angelino Alfano aveva mandato una circolare ai prefetti con la quale imponeva ai prefetti di annullare le registrazioni di queste unioni omosessuali contratte all'estero, di questi matrimoni omosessuali contratti all'estero, e che alcuni sindaci avevano invece deciso di registrare. Ieri è intervenuto il TAR, ha detto: no, non lo possono fare i prefetti, lo devono fare i tribunali civili. È un po' paradossale, Scalfarotto, che una vicenda di questo tipo sia affidata a una circolare ministeriale e a un tribunale amministrativo. Totalmente, anzi io penso che questa sia una polemica del tutto, diciamo, inutile e ridondante, perché di fatto queste trascrizioni, che hanno un valore simbolico altissimo e molto importante, però purtroppo non hanno nessun effetto dal punto di vista civilistico, per cui ci stiamo, diciamo, accapigliando su degli atti formali che purtroppo non producono effetti nella vita dei cittadini. La verità è che quello di cui c'è bisogno è una legge che... faccio l'esempio, negli Stati Uniti ormai 37 Ma la mia domanda è: ma quando la fate questa legge? Allora, guardi, il Presidente del Consiglio ancora oggi, proprio su un suo tweet in risposta a una persona, ha scritto che l'impegno del governo c'è e la legge è già incardinata al Senato. Noi siamo, diciamo, c'è un impegno del governo molto netto ad andare in questa direzione, e ovviamente poi c'è tutta un'agenda di provvedimenti sui quali il Parlamento sta lavorando, e sta lavorando anche su questo. L'idea è quello di, appunto, una volta superato il, diciamo, lo scoglio delle riforme della legge elettorale, di aprire una stagione legata alle, diciamo, ai diritti civili, che non ha a che fare solo con le unioni, ma ha a che fare anche con per esempio la legge sulla cittadinanza. Perfetto. Allora, dato che i nostri ascoltatori non sono addentro ai lavori parlamentari, in certi casi, devo essere sincero, nemmeno noi, ci dia un termine, cioè un'idea di tempi nei quali si può inizierete seriamente a discutere in Parlamento di queste questioni, così come della questione della legge sulla cittadinanza. Quando? Guardi, maggio, giugno, quando? Io dico sì, diciamo è questione più di settimane che di mesi, nel senso che l'agenda del governo prevede che dopo le riforme, la legge elettorale, che stanno, appunto, stanno andando all'approvazione, in particolare la legge elettorale, si apra poi questa fase che prevede, appunto, unioni civili, legge sul terzo settore e legge sulla cittadinanza. È una giornata particolare per Forza Italia, non solo per quello che sta avvenendo in Parlamento, ma anche perché il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, attende in queste ore la sentenza della Cassazione sul processo Ruby. Ci racconta tutto Raffaella Calandra. L'udienza a cui tutta la politica guarda è iniziata questa mattina alle 11, ruolo numero 4, per dirla in gergo, della giornata, ossia il quarto processo, tutti rivolti ancora una volta come nell'estate di 2 anni fa al palazzaccio, ora che un altro processo a Silvio Berlusconi, quello Ruby, appunto, arriva in Cassazione. Così, appena terminata di scontare la pena ai servizi sociali per la frode fiscale Mediaset, l'ex premier aspetta il verdetto sulle notti di Arcore. La Suprema Corte ha davanti a sé sostanzialmente due possibilità: o confermare definitivamente l'assoluzione dai reati di concussione e prostituzione minorile, assoluzione in secondo grado emessa l'anno scorso, oppure rimandare gli atti a Milano per un nuovo appello che può riguardare sia l'intera vicenda o una sola delle due contestazioni. La partita oggi in Cassazione, dopo l'esposizione del relatore, si gioca tutta soprattutto sulla telefonata che Silvio Berlusconi fece in questura nel maggio 2010, dopo il fermo dell'allora 17enne Ruby. Per i giudici di primo grado quella fu concussione per costrizione, e per questo l'ex premier fu condannato a 7 anni. Per quelli di secondo grado invece fu semplicemente il capo gabinetto della questura, Ostuni, che si mise a disposizione dell'allora presidente del Consiglio, ricorderete la vicenda dell'affido di Ruby a Nicola Minetti, la storia poi smentita della famosa nipote di Mubarak, per una sorta di timore riverenziale, un elemento questo considerato illogico dal procuratore generale nelle 60 pagine del ricorso, e da cui appunto partirà l'esame appunto della Corte, che già in serata dovrebbe arrivare ad un verdetto. Un elemento importante è che, nel caso in cui ci fosse un nuovo processo d'appello, per Berlusconi le cose si potrebbero complicare, perché contemporaneamente a Milano sta per arrivare in chiusura il cosiddetto Rubiterro, ossia l'inchiesta sulla presunta corruzione dei testimoni, che in qualche modo potrebbe entrare anche all'interno di questa vicenda. Staremo a vedere quali saranno le notizie dal palazzaccio, ma ancora una volta la politica ha lì lo sguardo rivolto oggi. Siamo all'estero e dall'estero vi raccontiamo la vicenda dei due elicotteri che si sono scontrati in Argentina. A bordo c'erano 10 persone, tra queste 10, 3 erano campioni dello sport francese. Florence Artaud, 57 anni, era nota come la fidanzata dell'Atlantico. Era stata la prima donna a compiere la traversata della rotta del Rhum nel 1978, quando era appena ventenne. C'è anche lei tra le 10 vittime dell'incidente in Argentina. A perdere la vita altri volti noti dello sport francese, come la nuotatrice Camille Muffat, 25 anni, 3 medaglie alle Olimpiadi di Londra nel 2012, rivale dell'italiana Pellegrini, e il pugile Alexis Vastin, 21 anni, bronzo alle Olimpiadi del 2008 a Pechino. I tre, assieme ad altri connazionali salvatisi, erano impegnati nelle riprese del reality Dropped. I produttori, che avevano già usato location argentine per le edizioni precedenti del programma, una sorta di isola dei famosi, avevano scelto una zona desertica ai piedi della cordigliera delle Ande. Qualcosa però non ha funzionato. Nei pressi di Villa Castelli, per cause ancora da accertare, lo scontro tra due elicotteri. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'economia. I dati di oggi sono quelli dell'Istat, riguardano la produzione industriale e un arresto della produzione industriale che non ci si attendeva. Mette a rischio la ripresa il dato del prodotto interno lordo di gennaio, meno 0,7% rispetto a dicembre, meno 2,2% sull'anno prima. L'Istat sottolinea che la produzione industriale a gennaio è tornata a calare, per questi segni meno, dopo il risultato positivo di dicembre, e l'andamento dell'industria è direttamente correlato a quello dell'economia del paese. Tutti i comparti contribuiscono alla flessione tendenziale di gennaio, giù i beni intermedi, l'energia, i beni di consumo e, anche se meno, i beni strumentali. Tra i pochi dati positivi brilla il comparto dei veicoli, con una crescita del 35,9%. Si tratta del quarto aumento consecutivo. Bene tra i settori i mezzi di trasporto e in quello manifatturiero la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica ed ottica, apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi. Giù ancora metallurgia e tessile. A tutto questo si aggiunge per Banca Italia un altro peggioramento: calano i prestiti delle banche ai privati con un meno 1,8% a gennaio su base annua, dopo il meno 1,6% di dicembre-novembre 2014, e i prestiti a famiglie sono scesi dello 0,5%, come a dicembre, stesso segno meno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Confindustria ha deciso di rivolgersi alla Commissione Europea perché nella legge di stabilità sono previste delle novità che riguardano la cosiddetta reverse charge, che agli industriali non vanno bene. Hanno deciso di rivolgersi alla Commissione Europea. Noi vi facciamo sentire qual è la posizione degli industriali, ma soprattutto vi spieghiamo quali sono i problemi della reverse charge. Le imprese italiane sono molto preoccupate. Se la misura venisse autorizzata, produrrebbe pesanti conseguenze finanziarie per tutti i fornitori della grande distribuzione organizzata. E questo l'allarme lanciato da Confindustria, che ha presentato alla Commissione Europea una denuncia contro le reverse charge, l'inversione contabile dell'IVA relativa alle forniture nei confronti di supermercati, ipermercati e discount. La preoccupazione degli industriali riguarda la mole di crediti che matureranno. Considerando i tempi lunghi con cui l'Italia effettua i rimborsi, ciò avrà effetti devastanti sulla liquidità delle aziende, avverte Confindustria. Ma cos'è il reverse charge? È una modalità di applicazione dell'IVA che devia rispetto ai criteri ordinari, ci spiega Riccardo Ubaldini, commercialista e partner dello studio legale Bonelli Arede Pappalardo. Solitamente in un rapporto IVA il fornitore applica l'imposta sul valore della prestazione, quindi emette una fattura nel quale viene indicato l'imponibile e qui viene aggiunto il valore dell'IVA, 22% secondo quella che è l'aliquota ordinaria dell'imposta. Questo ovviamente comporta che chi riceve la fattura pagherà 122 al fornitore. Nel momento in cui opera il reverse charge, la fattura del fornitore viene emessa esclusivamente con la base imponibile e non l'IVA. Chi riceve questa fattura deve integrare, come si dice, la fattura rendendosi debitore e creditore allo stesso tempo nei confronti dello Stato. L'IVA non viene quindi versata nelle casse del fornitore, impedendo fenomeni di evasione fiscale. Dall'altra parte però non si ha più la compensazione tra IVA credito e a debito, perché l'imposta viene gestita solo da un soggetto che dovrà essere rimborsato dallo Stato. E visti i tempi italiani, questo non è di certo un vantaggio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora due storie che sicuramente faranno discutere. Iniziamo dalla vicenda di Trieste, ve ne abbiamo parlato nei titoli. Il gioco del rispetto, un gioco distribuito negli asili, in 45 asili di Trieste, scuole materne per essere più precisi, nel quale con questo gioco si cerca di educare i bambini a non percepire tanto le differenze tra uomo e donna, almeno in termini di ruoli. Per esempio c'è un gioco del memory, ce lo spiegherà tra un attimo la vice sindaco di Trieste, c'è un gioco del memory nel quale si parla di idraulico e idraulica. Sentiamo Fabiana Martini, vice sindaco di Trieste. Questo è un gioco che ha un unico obiettivo, quello di trasmettere ed insegnare, partendo sin da piccoli, il concetto di uguaglianza tra uomini e donne, quindi di riequilibrare la disparità che c'è tra i generi, proprio partendo dall'idea che questo è uno dei problemi della nostra società, è inutile che ce lo neghiamo. C'è ancora oggi un problema di svantaggio sociale e politico a sfavore delle donne, che peraltro incide sullo sviluppo complessivo della società, non soltanto sulle condizioni delle donne. Quindi riteniamo che allora, sia... Gli obiettivi sono chiari, ma molto in concreto, che cosa prevede questo gioco distribuito negli asili? E, certo. Ce lo spiega, allora, riassume per sommi capi, perché poi non abbiamo un'eternità. Prego. Naturalmente, rivolgendosi a bambini dai 3 ai 6 anni, non poteva che essere il gioco, insomma, il linguaggio utilizzato. Quindi questo, allora, c'è ad esempio il gioco del memory, che è uno dei giochi che va per la maggiore tra i bambini di quell'età lì, e nelle tessere che i bambini devono in qualche modo accoppiare e ricostruire ci sono professioni tradizionalmente attribuite solo ad un genere che vengono attribuite anche all'altro. Un esempio, l'idraulico, c'è l'idraulico e l'idraulica. Il casalingo e la casalinga, il pilota e la pilota. Benissimo. Senta, ma invece questa storia dei toccamenti, così abbiamo letto sui giornali, è una falsità, nel senso che semplicemente una delle attività che vengono proposte, perché sono 11 in totale le attività che vengono proposte, all'interno delle quali poi gli insegnanti sceglieranno come trasmettere nel modo più adeguato, anche pensando ai bambini e alla classe che hanno questi concetti, prevede di sentire il battito, di fare un'attività fisica, poi sentire il battito del cuore, sì, e far capire ai bambini che i corpi funzionano allo stesso modo, cioè noi, sì, siamo diversi in quanto siamo maschi e siamo femmine, ma i corpi funzionano allo stesso modo e, pur essendo diversi, abbiamo gli stessi diritti. Non c'è la ricerca della diversità come l'avevamo intesa dai giornali, cioè bambini della scuola materna che si toccano a vicenda i genitali. Assolutamente no. Benissimo. E non c'è neanche lo scambio dei vestiti così come è stato descritto, cioè c'è un'attività che parla di travestimenti, ma noi sappiamo, credo che chiunque conosce, ha a che fare con bambini di quell'età o ha messo per una volta il piede in vita sua in una scuola dell'infanzia, sa che una delle attività più amate dai bambini, e non certo da oggi neanche da ieri, è quella proprio dei travestimenti, di giocare allo scambio dei ruoli. Ci sono in molte scuole dei grandi cesti con vestiti di vario tipo e quindi un'attività proposta è quella di uno scambio di ruoli o comunque di giocare a inventarsi dei personaggi che non necessariamente devono essere interpretati in base al genere tradizionalmente attribuito a questi personaggi. Diciamo Non avete intenzione di arretrare su questa iniziativa? Assolutamente, Martini. No. Un'altra storia che farà discutere è quella che arriva da un ricorso vinto, da un'associazione contro il concorso del Ministero dell'Istruzione per i supplenti. La decisione riguarda Milano, ma potrebbe estendersi a questo punto, perché si parla di un ricorso che riguarda, o meglio di un concorso, scusate, che riguarda 500.000 di persone. È un ricorso che ha avuto successo perché nei concorsi pubblici non si può dire che si richiede la cittadinanza italiana. In sostanza, anche gli stranieri con determinati status, naturalmente, possono accedere ai concorsi pubblici italiani. L'avvocato Alberto Guariso ha curato questo ricorso. Sentiamo. Le norme sono cambiate nel settembre 2013, quindi non sono effettivamente poco conosciute, ma è dal settembre 2013 che, in ottemperanza delle direttive dell'Unione Europea, è cambiata la legge sul pubblico impiego e ha detto sono ammessi anche gli stranieri che abbiano determinati titoli di soggiorno, e cioè sono tre in particolare: i lungo soggiornanti, cioè quelli col permesso di soggiorno a tempo indeterminato, i rifugiati politici, i familiari di cittadini comunitari o di cittadini italiani. Sono solo questi tre gruppi, quindi non tutti, però questi tre gruppi coprono il quasi 60% degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Quindi è stato fatto un passo avanti, sì, verso l'apertura del pubblico impiego veramente molto rilevante, perché appunto quelli esclusi sono ovviamente una minoranza. Ovviamente, avvocato, costoro devono avere i requisiti, questo è evidente. A parità di condizione con i, esatto, cittadini italiani, quindi devono avere i titoli devono essere riconosciuti in Italia, allora, devono parlare la lingua italiana. Mi dice solo una cosa, qua se ne parla come di una vicenda milanese, ma in realtà potenzialmente la cosa riguarda quanti? Mezzo milione di supplenti, ho capito bene? Sì, quali sono i supplenti iscritti? Gli stranieri che hanno i requisiti per partecipare a questo bando probabilmente non saranno moltissimi, perché appunto ci sono i limiti del titolo di studio e del titolo di soggiorno che dicevo prima, quindi non saranno moltissimi. Più grave è che questa cosa, la rilevanza di questa decisione è che si inserisce in un contesto nel quale moltissime amministrazioni pubbliche stanno ignorando la norma del 2013, quindi a quasi 2 anni dall'emanazione continuano a ignorarla, e per un effetto un po' così di trascinamento dell'idea che dove c'è di mezzo il pubblico lo straniero non possa avere niente a che fare, continuano a fare i bandi come prima. Io cito sempre il caso dell'ANAS, che si è risolto davanti al Tribunale, sì, di Bergamo pochi giorni fa, e ha fatto un bando per spalatori di neve chiedendo la cittadinanza italiana, e dice ma noi siamo una società pubblica, l'ANAS è una SPA, sì, siamo una società a partecipazione pubblica e quindi ci mettiamo sto requisito. Ovviamente non si può, perché la norma è diversa e riguarda tutte le funzioni nelle quali non c'è un esercizio di pubbliche funzioni. Rimane il requisito della cittadinanza, cioè rimane l'idea che il cittadino e la cittadinanza, sì, garantisca una particolare, come dire, identificazione con gli interessi pubblici, ma solo quando è in gioco l'esercizio di una funzione brevemente, di particolare rilevanza. In 20 secondi, avvocato, da quel che ho capito lei ne ha messi in piedi un po' di vicende di questo genere, quante ne ha in ballo oggi, per così dire? Più che io, le associazioni che, sì, seguo, che se ne occupano, per esempio l'associazione studi giuridici sull'immigrazione, avremmo mandato una cinquantina di lettere nel giro di pochi mesi a vari enti che avevano sbagliato il bando. Quasi tutti l'hanno corretto, il Ministero dell'Istruzione, l'ANES e qualche altro non l'hanno corretto, e quindi sono finite davanti al giudice. Ancora adesso ce ne sono alcune in corso, però effettivamente è una difficoltà ad applicare, sì, una norma che è davvero inspiegabile. Ed è tutto per Effetto Giorno. Ringrazio per la parte tecnica del podcast oggi Pietro Lacorte, ringrazio tutti voi per l'ascolto, grazie per aver scaricato il podcast, i contatti effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook, il mio account Twitter, Simone Spezia. La trasmissione torna domani alle 13 in diretta, non ci sarò io, ci sarà Maria Piera Ceci, noi ci risentiamo giovedì.